America 24 di Mario Platero. Good evening. As we speak, our nation faces a multitude of challenges. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Barack Obama ha lanciato un appello alla nazione per cercare di risolvere la crisi del Golfo del Messico, per fermare la marea nera, per aiutare i pescatori, ma non solo i pescatori di gamberi che sono rimasti senza lavoro, ma tutta la popolazione che in qualche modo è stata colpita da questo disastro ecologico. Un discorso deciso, quello di Barack Obama, pronto a giocare al rilancio, partendo tuttavia da una posizione di debolezza. Sappiamo che i sondaggi erano contro di lui. Finalmente, ha scritto il New York Times questa mattina, il presidente Barack Obama, dopo 56 giorni di disastro, milioni di litri di petrolio nel Golfo e decine, centinaia, migliaia di ore di trasmissione televisiva, ha deciso di parlare alla nazione. Ecco, implicitamente c'è già una critica, ha fatto questo suo intervento troppo tardi. Barack Obama tuttavia ha cercato, come dicevo, di rilanciare ed ha affrontato tre argomenti in questo suo discorso. Il primo riguarda la sfida della pulizia, della ripulitura. Il secondo, quello degli aiuti da portare alle vittime di questo disastro. Il terzo, il rilancio di una sfida politica per il passaggio di un progetto di legge energetico. Molto clever, molto così intelligente e furbo, il presidente americano cerca di trasformare una posizione di debolezza in cui si è trovato in una posizione di forza. On April 20th, an explosion ripped through BP Deepwater Horizon Drilling Rig. Obama ha cominciato con una ricostruzione molto drammatica degli eventi. Quel giorno, il 20 di aprile, c'è stata un'esplosione, il mare improvvisamente si è colorato di nero, poi continuato, ma il punto centrale di questa prima parte resta la sfida per ripulire le coste. E qui Barack Obama, un presidente statalista, lo abbiamo visto in gran parte delle sue azioni, si è trovato improvvisamente a dover difendersi da accuse di non aver usato lo Stato abbastanza, a sufficienza, con decisione, determinazione per affrontare e risolvere quella che è stata la più grande calamità, il più grande disastro ambientale degli Stati Uniti d'America. Il presidente ha cercato di dimostrare senso di iniziativa, ha promesso che entro le prossime settimane il 90% del petrolio in fuoriuscita sarà controllato e che in agosto sarà completamente risolto il problema dello spilling, appunto dell'uscita, della fuoriuscita del petrolio che va a inquinare le acque. Ha promesso la mobilitazione di 17.000 persone, parte della Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale è una guardia statale, e ha detto che sarà lo Stato, sarà il governo federale a coprire le spese. Il secondo punto, come ha specificato del resto lo stesso presidente nel suo discorso, riguarda il risarcimento danni dei pescatori, di coloro che hanno comunque perso il lavoro. Si dice che dovranno per esempio essere rimborsati anche i lavoratori del settore petrolifero che si trovano a casa per via della moratoria di 6 mesi alle esplorazioni e alle trivellazioni imposta appunto dalla Casa Bianca. Su questo punto c'è discussione, naturalmente la BP resiste, non vedo perché, ha detto Hayward, l'amministratore delegato, non vedo perché dobbiamo pagare noi per una decisione presa unilateralmente dalla Casa Bianca che riguarda magari altre compagnie petrolifere. Ma Barack Obama non vuol sentire le recriminazioni della British Petroleum, secondo lui non ci sono scuse, la compagnia britannica ha sbagliato, non ha preso le adeguate precauzioni, ha creato questo disastro ambientale e dunque dovrà pagare fino all'ultimo centesimo. Ha chiesto la costituzione di un fondo speciale, 20 miliardi di dollari, si dice, che sarà gestito autonomamente, dunque non dalla BP, e da un comitato di fiduciari nominati quasi certamente dal Parlamento. The third part of our response plan is the steps we're taking to ensure that a disaster like this does not happen again. Ripulitura, dunque, il conto alla BP, un po' di populismo che nella filosofia di Obama non guasta mai, e alla fine il rilancio della partita politica. Ci saranno importanti elezioni a novembre, come ormai voi ascoltatori saprete, visto che ne parliamo spessissimo. Ci saranno queste elezioni, dicevo, alle quali i democratici e Barack Obama si presentano sixtantibus rebus alquanto deboli. Ecco, Obama ha cercato di trasformare questa situazione di debolezza e le accuse che gli sono state rivolte per non essersi precipitato in Louisiana, per non aver usato tutte le risorse disponibili, e dunque queste accuse di latitanza, sta cercando di trasformarle in un'offensiva politica. Ha dimostrato con questo discorso di essere presente, di essere attivo, di aver già preso tutte le misure possibili. A questo punto c'è il rilancio politico, e un po' come ha fatto quando ci fu il dibattito sulla riforma bancaria, il presidente americano cerca di stringere i repubblicani nell'angolo e rilancia: si deve passare al più presto una proposta di riforma energetica. È stato questo il terzo punto importante del suo discorso, che in qualche modo cerca di rilanciare la sua leadership nel Paese. Non è chiaro se Obama ci riuscirà. Non solo i repubblicani resistono, ma anche molti democratici legati al settore petrolifero sono contrari alla proposta che langue in Congresso, già passata alla Camera, ma non ancora in discussione al Senato. Perché? Beh, perché in questa proposta alla fine si colpisce il settore petrolifero, si chiede l'imposizione del carbon trade, limit in carbon trade, cioè dei limiti alla possibilità di inquinamento da parte delle compagnie. Se questi limiti saranno superati, ci saranno delle multe gravissime, e ci sarà la possibilità invece per coloro che avranno un buon voto in condotta ambientale di poter scambiare gli eccessi di non inquinamento con coloro che invece hanno inquinato in modo eccessivo. L'idea è di creare un vero e proprio mercato in cui questi diritti di inquinamento e di pulizia potranno essere scambiati. Un paio di altre notizie interessanti. Intanto, un incendio, una delle navi che ripuliva il mare è stata, pensate, addirittura colpita da un fulmine. Esploso un incendio, si sono interrotte le operazioni di pulizia, poi per fortuna è tornato l'ordine e le operazioni di ripulitura sono ricominciate proprio poche ore prima del discorso di Barack Obama. Infine un'osservazione: le grandi compagnie petrolifere americane, la Exxon, la Chevron eccetera, hanno preso le distanze ieri durante un'audizione in Congresso dalla BP, dicendo che è stato il colosso petrolifero britannico a commettere degli errori che non si ripeteranno e che non sarebbero avvenuti se si fossero seguite le normali procedure. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, anche ovviamente in materia ambientale, da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, It Ain't My Fault, non è colpa mia, Mos Def e Lenny Kravitz, una canzone ispirata dallo scaricabarile che abbiamo assistito in queste ultime settimane per la crisi del Golfo del Messico. Say man, who pushed the marsh back where the hurricane shelter in the garden at? Oh, it ain't my fault. Say, from the Gulf of Mexico to the broke level wall, something gone wrong and somebody off. Oh, it ain't my fault. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.